Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. L'emergenza Covid-19 in Italia, oltre a mettere a dura prova la struttura sanitaria del paese, ha sottoposto a forti pressioni anche l'intero sistema dei trasporti e della logistica. Fra chiusure di alcuni comparti e attività particolarmente intense di altri, la pandemia ha evidenziato punti di forza e criticità di questo segmento, particolarmente importante per la crescita e la competitività delle imprese. Ma quali sono state le ricadute di questo periodo? E da dove ripartire adesso per migliorare e innovare tutta la catena di trasporto nazionale? Fra i passi importanti in questo senso c'è la campagna di formazione Guidiamo Sicuro dell'Albo degli Autotrasportatori, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinata da RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti. Il progetto è rivolto ai conducenti di mezzi pesanti e mira a fornire tutte le competenze per una guida più sicura e sostenibile, elementi chiave per rendere più efficiente il settore. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che sta cercando in questa fase 2 anche di riprendere pienamente le proprie attività dopo una fase in cui ha lavorato sicuramente molto perché ha garantito il flusso delle merci in Italia nella fase di piena emergenza, ma ha anche sofferto della chiusura, ad esempio, dei grandi impianti industriali che hanno avuto delle ricadute ovviamente importanti anche sul segmento dei trasporti e della logistica. Un mondo del quale parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Ennio Cascetta, amministratore di RAM Infrastruttura Logistica e Trasporti, la struttura del Ministero dei Trasporti che appunto segue con attenzione l'evoluzione di questo segmento. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, cominciamo con il definire qual è il ruolo di RAM. Ma RAM è una struttura in-house, una società in-house del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che per conto del Ministero, per conto della struttura tecnica in missione, svolge una serie di compiti, fra cui la gestione dei contributi di ferro bonus, mare bonus, sconto pedaggio proprio recentemente ha svolto, svolgerà un compito di coordinamento e implementazione di attività di formazione proprio per gli autisti dell'autotrasporto. Certo, un progetto che tra l'altro è partito proprio in questi giorni e realizzato in collaborazione con l'Albo degli Autotrasportatori. Ecco, quindi il vostro è sicuramente un osservatorio privilegiato su quello che succede nel mondo dei trasporti e della logistica, e proprio a proposito di questo lei in un recente intervento ha parlato rispetto appunto allo tsunami Covid-19 di una situazione che ha messo in evidenza fragilità e punti di forza di questo settore. Ma innanzitutto i punti di forza, io partirei dal fatto che in una situazione veramente totalmente imprevedibile, anomala come quella del lockdown, del Covid-19, la logistica e le aziende che fanno trasporto merci hanno garantito agli italiani di essere curati, di poter mangiare, no? Proprio il rifornimento dei beni essenziali. In condizioni di particolare necessità, e infatti è un po' passata anche questo racconto degli altri eroi nazionali, quindi oltre al personale sanitario, medici e infermieri, anche gli autotrasportatori, gli operatori della logistica sono stati percepiti finalmente dal paese come dei protagonisti di servizi essenziali. Ecco, questo è il punto, secondo me, che è emerso con forza in questa crisi. Fra i servizi essenziali di cui ha bisogno un paese per sopravvivere nelle condizioni non solo ordinarie ma anche di crisi estrema come quelle che abbiamo vissuto, ci sono i servizi di logistica e di trasporto. Questo settore ha subito un notevole rallentamento e un notevole danno. Ovviamente, come diceva lei, perché la chiusura dell'industria, il blocco del commercio, eccetera, eccetera, hanno ridotto i traffici, ma li hanno ridotti in modo diverso, a seconda dei diversi ambienti. Per esempio, un meno 40% sulle autostrade, un meno 35% sulle strade statali, parliamo di camion ovviamente, di autotrasporto, e solo meno 30% sulle strade urbane e metropolitane. Quindi una riduzione più forte sulle lunghe percorrenze, no? Anche perché il paese era proprio segmentato, diciamo così, e invece una riduzione meno forte sulla mobilità di breve raggio, anche dovuta all'esplosione dell'e-commerce di questi due mesi, di questi tre mesi. Quindi l'autotrasporto perde dal meno 40 al meno 30, il ferro perde meno 30, ma solo meno 15 per l'intermodale. Quindi l'intermodale è praticamente il segmento del trasporto merci che ha perso meno. Certo. Questa fase. E ovviamente noi spieghiamo ai nostri radioascoltatori, intermodalità è la possibilità di far viaggiare le merci utilizzando diverse modalità di trasporto, quindi magari la gomma insieme con il ferro insieme con le autostrade del mare e così via. Esatto, quindi praticamente la ferrovia, come dire, il camion o pezzi di camion che vanno, i semirimorchi che vengono messi sulla ferrovia per essere spediti all'estero quando c'era poi anche un lockdown su tanti paesi europei. Però quello che voglio dire è che perdere il 40, 30, 40% di traffico dal punto di vista della ricaduta sui conti delle aziende è peggio che perdere il 100% del traffico. Mi spiego, l'alta velocità o i vettori aerei, che sono praticamente stati annullati in questo periodo, non hanno avuto ricavi, ma non hanno avuto neanche tantissimi costi, se non quelli fissi, perché a quel punto le flotte stanno a terra, no? E gli aerei erano tutti negli hangar. Certo. Quando tu devi portare il 40%, il 60% delle merci, perché servono per sopravvivere, no? A tutti, deve avere una struttura pienamente costi, funzionale. Bravo, certo, hai, devi avere una struttura pienamente funzionale, quindi hai meno ricavi, fra l'altro ricavi che verranno dopo, perché quasi nessuno sta pagando le aziende di trasporto. E ci sono situazioni che abbiamo denunciato anche noi in trasmissione, di committenti che hanno annunciato pagamenti a gennaio del prossimo anno di fatture di marzo. Ma viene considerato, come dire, un costo rinviabile, per cui tu hai per le aziende, ma per le aziende che usano la logistica, ma per chi produce la logistica significa che tu hai avuto dei costi quasi pieni e hai avuto dei ricavi che sono nominalmente il 40-50% in meno, ma li avrai fra n mesi. Ecco, tutta questa situazione sta spingendo molti a dire, beh, possiamo ripartire migliorando. Nel caso dell'autotrasporto e della logistica, come possiamo migliorare questo sistema per renderlo più efficiente e competitivo e soprattutto per garantire alle aziende che sono in questo settore dei giusti compensi? Ma guardi, io penso che i punti per migliorare sono sostanzialmente tre. Il primo, bisogna, come dicevo, riconoscere che questo settore e questi servizi sono di interesse economico generale. Non c'è uno schema generale che riconosca ai servizi logistici la stessa rilevanza che hanno quelli viaggiatori per il paese. Quindi innanzitutto un sistema, come dire, di riconoscimento pubblico della utilità e quindi di un finanziamento pubblico mirato. Il secondo punto di debolezza del settore attualmente è una debolezza strutturale. C'è una iperframmentazione degli attori, società di trasporto troppo piccole, i famosi padroncini, i proprietari di pochi camion, eccetera, che essendo piccoli ovviamente hanno poche possibilità di accedere al credito, hanno più problemi di finanziamento e hanno anche meno capacità di sopportare delle crisi finanziarie come quelle che stiamo, crisi di liquidità come quelle che stiamo vivendo. Quindi c'è sicuramente per migliorare il bisogno di andare verso una politica industriale dell'autotrasporto. Quindi una politica che premi l'innovazione, premi la tecnologia, premi anche l'aggregazione di soggetti verso come dire, forme che non sono necessariamente la società, ma forme di integrazione che diano maggiore, come, solidità economica, certo, e finanziaria, certo, agli operatori. E il terzo punto di miglioramento è appunto attraverso una promozione della logistica e del trasporto come un'industria italiana. Ecco, proprio in questa ottica, dall'inizio di questa settimana, anzi in realtà da metà settimana, è partita un'operazione congiunta che vede insieme RAM, infrastrutture, logistica e trasporti, l'albo degli autotrasportatori e quindi l'intero Ministero dei Trasporti su un tema che è fondamentale a questo punto per l'evoluzione delle imprese, quello della formazione. Di che cosa si tratta? Guidiamo sicuro è lo slogan di questo progetto, che prevede la formazione di circa 4.000 autisti dell'autotrasporto, appunto, che riceveranno dei corsi sia di e-learning, quindi a distanza, con le credenziali che verranno fornite, che sono state fornite alle imprese che hanno aderito a questa iniziativa. Questi corsi di e-learning riguardano la guida sicura e la guida sostenibile, quindi come si può guidare per risparmiare combustibile, carburante e inquinamento, e come va, diciamo, come si può guidare per ridurre i rischi. Ma la fase teorica poi verrà seguita da una fase pratica, quindi ci saranno delle prove di guida sicura e guida sostenibile sia su strada, proprio con dei camion in circuiti, in percorsi, diciamo così, predefiniti, sia con dei simulatori molto avanzati di guida, e quindi vedremo anche quanto si consuma o quanto si rischia prima e dopo il corso di formazione per lo stesso autista, per lo stesso operatore. Ecco, questa va nella direzione, un'operazione così va nella direzione di qualificare gli autotrasportatori, portarli a un livello, come dire, di preparazione, di cultura che va verso, diciamo, un operatore tecnologico, un operatore che ha un know-how specifico, moderno, che è sensibile a tutta una serie di tematiche che riguardano appunto l'ambiente e la sicurezza, che sono due temi prioritari per tutti ovviamente, ma che hanno anche delle ricadute per l'impresa. Un autista che guida ecologico, un autista che guida sicuro, fa risparmiare all'impresa in termini di carburante, in termini di rischi e quindi di assicurazione. Veramente è, penso, un avvio di quella che dicevamo, una politica industriale, quindi una politica che non fa protezionismo sulla base della nazionalità, ma fa qualità, e dovrebbe poi riconoscersi questa qualità con un bollino che dà a chi ha frequentato questo corso una riconoscibile ricaduta dal punto certo. di vista di autorizzazione. E noi seguiremo con grande attenzione l'evoluzione di questo progetto di formazione. Termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Ennio Cascetta, amministratore di RAM, Infrastrutture Logistica e Trasporti. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.